Carissimi amici, sembra che viviamo dei momenti non facili. Sembra che viviamo dei momenti in cui ci sono delle difficoltà da affrontare, per le quali ci troviamo impreparati forse, su tanti livelli, ma anche sui livelli ideologici dell'ebraismo tradizionale, che deve lottare con idee diverse per poter mantenere la propria tradizione. E a volte, per tanti motivi, che siano economici, che siano di difficoltà diverse, si pensa di rinunciare, di diminuire in qualche maniera le attività per cercare di mantenere il più possibile quello che c'è, senza pensare di espandere, di rendere più grandi le attività, gli approfondimenti, eccetera. Ebbene, tanti anni fa c'era una festa di un bar mitzvah. Era in realtà la prima festa di bar mitzvah mai festeggiata. Di chi potrebbe essere stata la festa di bar mitzvah, la prima mai festeggiata? Certamente di Yitzhak, il secondo dei nostri tre avi. Il suo padre Abraham fece una grandissima festa, racconta un midrash antichissimo, e invitò tutti i grandi della terra, tra cui c'erano nobili, c'erano dei re, e tra questi c'era il famoso Og. Og era un re, un monarca del Bashan, e lui era una persona molto temuta, molto potente, e lui si guardò intorno durante quella festa e disse: ma guarda questo Abramo, chi si crede di essere a porsi contro tutto il mondo con le sue idee, con i suoi sogni? Guarda cosa lascia, un figlio. Io con un solo dito schiaccio questo figlio, potrei schiacciarlo, potrei eliminarlo e potrei con questo schiacciare tutte le sue idee ed eliminare tutti i suoi sogni. Il Midrash dice che in alto HaKadosh Baruch Hu rideva e diceva: ma vedrai, Og, che tu vivrai molto a lungo per poter vedere il popolo che uscirà fuori da questo piccolo figlio, e non solo, arriverà un momento in cui cadrai nelle loro mani. Questa storia la raccontava il Rebbe citando il Midrash in una lettera che scriveva nel 1951 ad un ragazzino che diventava bar mitzvah. E colgo l'occasione per dedicare questa piccola lezione a un ragazzo che entra questa settimana di Minyan, Daniel, con cui ho studiato la Parashà e Arvit, e sono molto fiero di lui, e gli dedico questa lezione. Diceva il Rebbe in questa lettera al ragazzino che entrava, diventava bar mitzvah: rifletti su questa storia, vedi come è la storia del popolo ebraico. Il popolo che è sempre una minoranza, come c'è scritto nella Torah, quindi tra parentesi non è considerata una cosa, un'anomalia, il fatto che gli ebrei siano pochi, è previsto che sia così. E quindi questo popolo che è sempre una minoranza deve sempre porsi davanti a delle idee diverse, ma non su un piano di gioco, diciamo così, equo, uguale, equilibrato. Si trova come una piccola realtà davanti ad una realtà gigantesca, come quel piccolo bambino davanti a quel gigante. E noi siamo un piccolo bambino davanti ad un gigante delle idee, delle correnti, delle ideologie che sono, tra virgolette, gigantesche. E a volte ci si potrebbe sentire schiacciati. E per il timore di questo essere schiacciati, si potrebbe pensare di rinunciare a qualcosa, di diminuire, di stare un attimo calmi, di stare un attimo raccolti, di stare zitti, di rimanere in silenzio, di nascondersi, chi in una maniera e chi in un'altra. Ma la storia ci insegna che la nostra fede, la nostra fiducia in HaKadosh Baruch Hu, nel messaggio che siamo, diciamo che, siamo, che ci è stato dato da trasmettere a noi stessi e a tutto il mondo, tutto ciò ci dà una forza che non possiamo neanche immaginare. Che tutti questi giganti possono farci del male ma non possono eliminarci. Ci passano davanti, da una generazione all'altra. Non pensiamo che siamo qualcosa di particolare, che non abbiamo mai affrontato difficoltà. Sappiamo benissimo che abbiamo affrontato difficoltà. Sappiamo benissimo che ci sono state difficoltà molto più complicate di quelle che stiamo vivendo adesso. Ma dobbiamo puntare non sulle difficoltà, dobbiamo puntare sulle soluzioni, dobbiamo puntare sul nostro approfondimento della Torah, dell'educazione delle prossime generazioni secondo la tradizione, senza pensare neanche a rinunciare a qualcosa, a diminuire qualcosa, come un buon imprenditore che sa che il momento migliore per investire è proprio il momento della crisi. Se c'è una crisi, questo è il momento per investire. E credo che questo sia uno dei messaggi importanti che il Rebbe di Lubavitch ha lasciato al mondo, è quello di approfondire molto profondamente la nostra emunah, la nostra fede, la nostra fiducia in HaKadosh Baruch Hu, fino al punto che diventiamo come un'oliva che viene pressata. Nel momento di difficoltà, nel momento in cui siamo pressati, cosa viene fuori dall'oliva? L'essenza, l'olio, la parte più pregiata, la parte più preziosa. E anche noi, se ci sentissimo pressati, dovremmo usufruire di quel momento per tirare fuori il meglio, non per scappare, non per stare intimoriti nell'angolino, anzi, per credere ancora di più in quello che facciamo, e la forza sarà ancora maggiore. Allora, cari fratelli, care sorelle, bisogna avere un atteggiamento positivo. Non dico naif, ma realista, ma positivo. A volte bisogna lavorare duro, certo, però questo non significa che non è una cosa positiva. Lavorare duro è una cosa positiva per tirare fuori dei risultati ancora migliori, ancora maggiori. Allora questa settimana, che noi segneremo, tutti gli ebrei del mondo segneranno la ricorrenza del Rebbe di Lubavitch, teniamo a cuore queste idee. Teniamo a cuore i suoi insegnamenti, partecipiamo a eventi della ricorrenza, come a Roma si segnerà 27 giugno a sera all'Hotel Quirinale, siete tutti invitati a partecipare, anzi fatemi anche sapere se venite così sappiamo quante persone vengono. Accendiamo un lumino per ricordare questo grandissimo tzaddik della generazione. Ma soprattutto prendiamo a cuore questo, uno dei messaggi che ci ha lasciato. Siamo positivi. Momento di difficoltà può darsi, però se è così, allora è motivo di diventare ancora più forti. Non è motivo di mettersi da una parte, non è motivo di rinunciare a qualcosa, non è motivo di essere intimoriti, è motivo di approfondire ancora di più le nostre radici, è motivo di educare ancora meglio i nostri figli, i nostri nipoti nell'ebraismo, è motivo di fioritura, di apertura e di chiarezza sempre maggiore. Shabbat shalom a tutti quanti e un caro saluto.